Bufala in tavola di Nicoletta Carbone. E allora muoviti, muoviti, comincia a muoverti, muoviti. E allora muoviti, muoviti. Oh yeah. Dai su, muoviamoci, facciamo un po' in fretta che dobbiamo organizzarci, poi naturalmente mangeremo anche qualcosa. Non abbiamo più tanto tempo da perdere, è il weekend che precede il Natale, se non l'abbiamo ancora fatto dobbiamo scegliere il menù, pensare a organizzare la spesa per il cenone della vigilia e il pranzo, che sono, diciamo, gli appuntamenti più attesi delle feste. Il compito è un pochino impegnativo, ma ce la faremo, intanto perché ci aiuta una grande esperta che voglio subito far raccomandare a capotavola, la dottoressa Evelina Flacchi, che è tornata a trovarci. Buongiorno, buona domenica. Buona domenica a tutti. Dottoressa Flacchi, la ripresento, ma lei è un volto, è un personaggio così noto al pubblico televisivo, radiofonico e non, è specialista in scienze dell'alimentazione e fa parte del direttivo della SIPREC, che è la società di prevenzione cardiovascolare, autrice di libri. Dottoressa Flacchi è un po' una nostra guida, ci sarà da lavorare quindi anche oggi, non si metta troppo comoda, intanto tra l'altro questi sono giorni, dottoressa Flacchi, che per voi medici, voi nutrizionisti, voi che vi occupate di alimentazione, sono giorni abbastanza bollenti perché siete molto gettonati nei periodi che precedono le feste. Tutti vogliono sapere il segreto per festeggiare senza sensi di colpa, senza rinunce e soprattutto senza ritrovarsi, per non ritrovarsi con qualche centimetro in più. È un tormentone, dottoressa Flacchi, chissà te la fermeranno anche per strada. Sì, diciamo che questo è un periodo, chiamiamolo così, caldo, ma noi dobbiamo approfittare proprio di questo periodo per fare un po' di educazione alimentare, perché è inevitabile che proprio la scelta restrittiva alla dieta diventa difficile. Certo. Quindi educare il consumatore a fare delle scelte corrette quando acquista, quando cuoce e quando consuma. Quindi insomma lei è proprio la persona giusta, io sono molto contenta tutte le volte che torna a trovarci, perché lei ci aiuta ad avere un rapporto molto bello con quello che portiamo a tavola, senza sensi di colpa, e a prendere il meglio di quello che mettiamo nel carrello della spesa e poi portiamo a tavola. Sì, perché è importante sottolineare che non esiste di per sé il cibo ingrassante, il cibo dimagrante, il cibo che fa in assoluto male o bene. È la scelta alimentare quotidiana nel suo complesso che può creare dei problemi o dei benefici in relazione alle nostre esigenze e soprattutto anche in relazione alla nostra attività motoria, chiamiamola. Certo. Anche se non facciamo attività fisica, però dobbiamo muoverci un po', muoverci. Ho aperto proprio la puntata dicendo dobbiamo sbrigarci, dobbiamo andare a fare la spesa, organizzare il nostro menù, ma intanto che ci pensiamo io volevo tornare un attimo, dottoressa Flacchi, sulle diete delle feste. C'è un fiorire di diete che vanno da quella del finocchio a quella del panettone, passando quella del piatto unico, si mantiene sempre stabile ai primi posti quella del digiuno, del salto pasto, e noi già tante volte ci siamo occupati di queste diete morde e fuggi che promettono di farci perdere chili in breve tempo, e so già che voi le bloccate e le bocciate, ma tant'è che bisogna fare un po' di necessità virtù, perché magari prese alle strette molte persone cedono alle lusinghe di queste scorciatoie. E quindi, dottoressa Flacchi, se lei è d'accordo, io credo che sia utile tornare a parlarne per magari dare dei consigli a chi vuole, per necessità, senso di colpo, oppure per compiacere al compagno o alla compagna che le seguono, prendere, sbocconcellare da quello che queste diete propongono, per così carpire qualche segreto per mantenersi in forma. Di base, se non bruciamo calorie, dobbiamo consumarne meno. Sì, questa è una regola. Poi, prima delle feste, abbiamo magari la necessità di indossare un vestito che tira un po', che tira un po'. Allora possiamo sicuramente fare delle scelte di qualità, ma per ridimensionare i nostri pasti. Io non sono mai d'accordo sulle diete restrittive in assoluto, né monoalimento. Sì. Bisogna comunque... Quindi già quella del finocchio me la boccia, come ma, quella del insomma... limone, dell'ananas, della lattuga e del minestrone, anche perché è una noia. Ma poi portano il beneficio temporaneo e in più diamo un messaggio di restrizione al nostro organismo che lo induce ad accumulare successivamente più di prima per crearsi delle riserve, avendo memorizzato una situazione, chiamiamolo così, di restrizione, quindi di rinuncia, di pericolo. Però lei ha messo il dito nella piaga, perché mi ha subito portato quell'abito che noi tiriamo fuori, dobbiamo andare alla festa di Natale magari dell'azienda oppure dei parenti, e quel vestito tira e io devo eliminare, almeno togliere quel centimetro per rientrarci, perché sennò mi tocca comprarne uno nuovo. Quindi ci fermiamo. Dottoressa Flacchi, io so che lei ci aiuta a sottigliarci per infilarci nel vestito e festeggiare, perché anche questo è bello. A tra poco, dopo le informazioni sul traffico. La bufala in tavola. Accomodatevi. Vi stavamo aspettando, insieme a me c'è la dottoressa Evelina Flacchi, con cui stiamo parlando naturalmente di che cosa fare, quale attenzione avere, quale precauzioni adottare, se questo è una buona cosa, prima delle giornate di festa, Natale, Santo Stefano. Devo dire che a casa mia, dottoressa Flacchi, si inizia il 24 di dicembre e si chiude il 6 di gennaio, perché ogni giorno ce n'è una buona, perché la vigilia, perché noi festeggiamo la vigilia, poi c'è il pranzo di Natale, poi quello della sera, poi Santo Stefano, si invitano gli amici, eccetera, e quindi non si finisce mai. Ma... prima delle informazioni sul traffico, lei ha messo il dito sulla piaga e ci ha fatto ricordare di quel vestito che vorremmo mettere ma c'è un po' strettino e che vogliamo riuscire ad infilare. Io parlo di vestito, ma naturalmente questo anche gli uomini hanno magari il pantalone che un attimo tira. Ecco, che cosa possiamo fare proprio per togliere quel centimetrino? Ecco. Ma dobbiamo distinguere se questo centimetro è dato da una momentanea ritenzione idrica, perché già in questi giorni cominciamo a festeggiare con amici e ambienti di lavoro, quindi può esserci quella tensione legata magari a un po' di gonfiore o di ritenzione idrica per noi donne, proprio perché i cibi che assumiamo sono troppo salati, qualche bicchiere di vino in più. Ecco, e quindi può essere anche utile solo una giornata di depurazione. Se invece questi chiletti sono legati al grasso, ecco, affezionati, possono indurci a pensare a un programma molto più continuativo, verificato da esami del sangue, da affrontare con l'anno nuovo. Adesso non ci pensiamo. Ecco, brava. Quindi se ho un problema, diciamo, se mi tira perché sono un po' gonfio, andiamo conto. Magari un po' durante il giorno, prendiamo qualche tisanina in più, beviamo un po' di più, magari un brodo alla sera. Brava, ecco, un passato vegetale, eccetera. Se invece sono affezionati, io direi di rimandare, ma in questi, senza toglierci nulla in questi giorni, perché quel che fate è fatto. Purtroppo sì, ecco. È inutile pensare al miracolo. Però noi non abbiamo dimenticato che oggi con la dottoressa Flacchi vogliamo andare a fare la spesa. Forse stiamo diventando un pochino più bravi. Spingere un carrello pieno sotto braccio a te e parlar di surgelati rincarati. Andate da soli o accompagnati solitamente a fare la spesa? E poi qual è quel prodotto che di regola vi dimenticate? Capita, dottoressa Flacchi, capiterà anche lei. Vado, devo prendere questo, poi arrivi a casa, hai preso tutto tranne quello lì. Perché? Perché bisogna fare la lista. Sì, suggerite anche questo. I medici suggeriscono, che si occupano di alimentazione, i nutrizionisti dicono occhio, fate la lista della spesa. Bisognerebbe fare la lista della spesa, andare a farla con la pancia un po' piena, per avere meno tentazioni, e nel caso in cui ci si dimentichi qualcosa vorrà dire che faremo più attività motoria. E certo, ecco. Chi non ha testa gambe. Esatto. Però, dottoressa Flacchi, forse un po' di merito naturalmente possiamo prendercelo anche, perché abbiamo fatto un po' informazione e comunicazione proprio con l'aiuto suo, dei suoi colleghi. Noi siamo diventati consumatori più attenti, più consapevoli, attenti direi alla nostra salute. GFK Italia proprio ha realizzato un'indagine online in 17 paesi, chiedendo oltre 23.000 persone, quindi un campione direi abbastanza rappresentativo, quali sono le caratteristiche più importanti che valutano quando scelgono cosa mangiare o bere. Noi italiani andiamo in Italia, un italiano su due è indicato come fattori decisionali importanti. Lei sarà molto soddisfatta. Il fatto che un alimento sia privo o a basso contenuto di zuccheri, dottoressa Flacchi. Questa è sicuramente un'ottima notizia, perché compensa i nostri sacrifici anche fatti a livello ministeriale nel programma di educazione alimentare, che ha convinto e ha dato indicazioni corrette alle aziende che sempre di più hanno l'obbligo di dare un'etichetta chiara al consumatore. Quindi già l'obbligo dell'etichetta è una, certo, diciamo un'arma vincente, ma la possibilità e l'indicazione a una buona lettura è quella che noi sicuramente proponiamo, perché la scelta della spesa deve essere sempre più consapevole. Quindi una riduzione degli zuccheri è chiaramente consigliata, perché nella prevenzione di patologie come il diabete di tipo 2 o correlazioni tipo la sindrome metabolica legata al grasso addominale, ci danno anche questa indicazione di controllo. Poi preferiscono gli alimenti senza utilizzo di prodotti, senza utilizzo di OGM, e privilegiano ingredienti a chilometro zero. Vedi come siamo stati, come siamo diventati bravi. Poi seguono, e lo vorrei commentare di nuovo con lei, nella classifica di importanza gli alimenti privi o con pochi grassi. Leggere questi dati prima di Natale, uno dice sono stato bravo tutto l'anno, posso eccedere a Natale, che questa è la, certo, filosofia. Quindi privi o con pochi grassi, anche se qua sui grassi bisogna intendersi, sì, dottoressa Flacchi. C'è oggi anche la possibilità di distinguerli perché l'etichetta è molto chiara sulla distinzione di grassi saturi e insaturi. Quindi il consumatore può valutare non solo la percentuale, ma anche la qualità dei grassi che acquista nel prodotto confezionato. Questo ci permette di mantenere quelle che sono le percentuali consigliate dalle linee guida, dove un 10% soltanto di grassi saturi deve essere presente nella nostra alimentazione quotidiana. Ovviamente mangiamo più cose, quindi se almeno quelle che possiamo controllare all'acquisto ci danno la possibilità di non eccedere. Certo, quindi basso contenuto di zuccheri, privi o con pochi grassi. Adesso però a Natale, la tavola del Natale è ricca e generosa di alimenti dolci e di alimenti anche ricchi. Diciamo, pensiamo alla nostra tradizione, dottoressa Flacchi, ma anche in questo caso per alcuni prodotti le cose sono cambiate e sono più magre di quanto noi possiamo pensare. Sicuramente c'è un controllo da parte della produzione, dell'industria, nella quantità di zuccheri semplici e di grassi, che sono quelli imputati, no? Certo. Nella prevenzione di patologie legate al metabolismo dei grassi e degli zuccheri. Quindi se noi possiamo fare una scelta mettendoci gli occhiali, leggendo l'etichetta, per avere consapevolezza nella nostra spesa quotidiana, questo è sicuramente un buon livello per fare un prevenzione a tavola. Prevenzione a tavola. Lei, dottoressa Flacchi, quanto ci mette in media a fare la spesa? Ma io va col, ormai sa già, a forza di leggere, di insegnare, sì, va a colpo sicuro. Sì, leggo le etichette perché ce ne sono sempre di nuove, sempre più complete, e quindi mi incuriosisce anche controllare quello che possono trovare al supermercato anche i miei pazienti, perché certo, le indicazioni che do devono essere poi supportate dalla richiesta, no, del consumatore. Perché bisogna poi che ci aiutate con dei consigli molto pratici. Però se uno non trova al supermercato quello che noi indichiamo, è finita. Ed è una cosa che mi è piaciuta, che ben evidenzia l'indagine di GfK Italia, è che piacciono agli italiani gli alimenti a chilometro zero, quindi quello che troviamo nei nostri mercatini rionali vicino a noi. Anche questo è un po' un cambio di passo e segno che l'informazione ha lavorato, ha fatto del bene, e soprattutto chilometro zero vuol dire anche però stagionalità, dottoressa. Sì. E l'inverno e il Natale, ci sono un sacco di ricette della tradizione natalizia che sono ricche di frutta, lo sappiamo, specie secca, ma anche di verdura, le puntarelle magnifiche che mangio quando sono a Roma, poi ci sono le cime di rapa, i cardi fantastici, così, certo, che buoni, croccanti quando viene il freddo, e poi tutta la famiglia dei cavolfiori, ci sono delle verdure che fanno anche Natale. Ecco. Sì, sono proprio le verdure stagionali di cui parliamo spesso, per indurre il consumatore ad apprezzare anche il proprio territorio, perché troviamo in ogni regione dei prodotti che non solo hanno la qualità per la produzione, ma hanno anche dei valori nutrizionali che oggi possono essere comunicati, validati scientificamente. Che bello! Quindi il consumatore è attento a promuovere la nostra dieta mediterranea, certo, regione per regione. Regione per regione, insomma siamo in una botte di ferro con la dottoressa Flacchi, e si aggiunge a noi Elisabetta Montesissa, responsabile campagna amica della Coldiretti. Buongiorno. Buongiorno. Buona domenica, benvenuta alla Bufala in Tavola. Ma quanto siamo diventati buoni e bravi. Ci piacciono le cose buone, ci piacciono i prodotti stagionali a chilometro zero. Anche per me, certo, è una bella soddisfazione questa. Il consumatore è leggermente cambiato. Il 90% degli italiani sceglierà la frutta locale e non la frutta esotica, che deve percorrere tante chilometri per arrivare sulle nostre tavole, e quindi oltre a non avere la sicurezza che abbiamo quando consumiamo prodotto italiano, evitiamo anche di inquinare il nostro ambiente, il nostro territorio, certo, perché non dimentichiamo che le migliaia di chilometri che percorrono le ciliegie che acquistiamo a Natale emettono in atmosfera tanta CO2. Allora, intanto, quindi, voi restate con noi, accomodatevi, andiamo a fare la spesa con la dottoressa Flacchi, con Elisabetta Montesissa. Cerchiamo un po' di sbirciare dentro la borsa della spesa degli italiani, per magari farci suggerire anche che cosa portare a tavola, che cosa comprare in questi giorni che precedono il Natale, e poi preparare delle ricette fantastiche e goderecce da condividere con i nostri amici e i nostri familiari. Facciamo una pausa, ma voi state lì perché vi ripiglio subito, chiamate qualcuno. Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. Ehi amico! Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori. Evviva! Vai su agenti.it. Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè! Ecco il re! Porta anche tu a tavola un re, il culatello di Zibello Dop, il re dei salumi, unico e inconfondibile come la sua terra d'origine, la Bassa Parmense. I nobili e potenti di un tempo gli hanno tributato onori, famosi poeti hanno decantato il suo gusto delicato e irresistibile. Ricorda, il vero culatello Dop è solo di Zibello. Culatello di Zibello Dop. Buono come lui, non c'è nessuno. Programma di sviluppo rurale dell'Emilia-Romagna 2014-2020. Info su ERAgricoltura.

Dottoressa Flachi, dobbiamo fare un'analisi di questo menù. Io già mi preparo, che ci ha proposto. Ma perché? Dobbiamo diciamo evitare di consumarli durante la settimana. Io già, lo sai, do quasi sempre 5 giorni diciamo controllati e 2 liberi, quindi il Natale e Santo Stefano possono essere le giornate in cui assumiamo cibi e alimenti che durante la settimana abbiamo messo da parte, quindi i salumi, l'antipasto, sempre anch'io raccomando la qualità, e quindi il prodotto DOP ci dà una sicurezza di produzione. E soprattutto oggi possiamo dire che hanno un ridotto apporto di grassi e di sodio, ecco, che ci permette di inserirli nella nostra alimentazione in dosaggio ovviamente di un 50 grammi per porzione, in modo più tranquillo rispetto al passato. Anche il cotechino, lo zampone hanno un minor apporto sia di grassi che di sale, quindi tenendo presente che sono prodotti d'eccellenza, questi DOP, che hanno una qualità di produzione e di nutrienti che possono fornire all'organismo anche vitamine e minerali di alto valore, come la vitamina B12, il ferro, lo zinco. Insomma, vedi, guarda quante cose, ci portano di buono le cose che ci piacciono. Il problema è che li mangiamo magari insieme a tante altre cose, invece dovremmo consumarli più spesso, magari durante l'anno, per evitare di mangiarli con troppo appetito in un solo giorno. Dottoressa, e poi abbiamo parlato anche di dolci, ogni regione ha una sua specialità, più di una. Certo, possiamo partire stavolta dal sud, dalla Sicilia, con le cassate, con i cannoli, per poi arrivare ai fichi a crocetta con il cioccolato e il bergamotto in Calabria, o agli struffoli in Campania, al panone in Emilia-Romagna. Insomma, un excursus bellissimo della nostra Italia. Sta salendo. E poi pandoro e panettone, che sono diventati un po' il simbolo del Natale, con delle differenze anche. Pandoro, panettone, dottoressa Flacchi, ciascuno sceglie quello che vuole. Diciamo, io li mangio entrambe, esatto, con grande soddisfazione. Assaggiamo un po' di uno, un po' dell'altro. Non facciamoci mancare niente. L'importante è che siano anche questi di qualità. E io magari sconsiglio, in giornate così importanti, di prendere quelli già farciti, ecco, prendiamo quelli tradizionali e magari la farcitura possiamo farla noi, controllarla nella quantità. Perché intanto che viene un po' questa cosa, beh, tanto che ci sono, esagero, esatto. Ecco, quindi il Natale però, lo sappiamo, non è solamente l'occasione per noi di riunirci con gli amici, con i familiari, di sederci intorno a un tavolo, come noi facciamo tutte le domeniche intorno al tavolo della Bufala in Tavola, ma il Natale è anche condivisione e solidarietà. Dottoressa Montesissa, pensiamo alle zone terremotate, abbiamo parlato di zampone cotechino e noi lo abbiniamo subito alle lenticchie. Le lenticchie ci portano nel cuore dell'Italia. Lenticchie, guanciale, pecorino, questa è proprio l'iniziativa legata alla solidarietà che come Campagna Amica stiamo facendo, proprio in corso in questo fine settimana. In tutti i mercati gli italiani possono donare un cesto con le eccellenze enogastronomiche del centro Italia, facendo anche un gesto di solidarietà, perché sono prodotti delle aziende delle aree terremotate. I riflettori si sono un po' spenti su quelle aree, ma non dimentichiamo che le aziende hanno continuamente bisogno di produrre, e quale miglior momento del Natale per pensare anche a loro. Quindi invito tutti ad andare sul nostro sito di Campagna Amica o ad andare nei nostri mercati, dove possono trovare, oltre ai prodotti locali, le eccellenze della biodiversità, anche i prodotti delle aree terremotate. Dottoressa Flachi, la dottoressa Montesissa ci ha parlato di pecorino, ci ha parlato di lenticchie, di guanciale indispensabile per la matriciana, certo, che è un piatto che gustiamo con piacere tutto l'anno, ma anche a Natale diventa sicuramente sono ingredienti di ricette della tradizione che non devono mancare. importante introdurre calorie nel nostro organismo che abbiano un valore biologico nutrizionale utile, ma soprattutto che arricchiscano anche il nostro spirito, il buon umore. Non facciamoci mancare in queste giornate i piaceri della buona tavola. Assolutamente. Dottoressa Montesissa, la ringrazio, la saluto. Spero... Grazie a voi. Grazie, buon Natale. Grazie altrettanto a tutti i radioascoltatori. Grazie, buona giornata. E direi che a proposito di piacere sarà tutto annaffiato da bollicine, perché ancora una volta gli spumanti col prosecco in testa saranno protagonisti delle festività natalizie, dei brindisi anche per il nuovo anno, per il 2018. Pensate che saranno oltre 68 milioni le bottiglie stappate globalmente in Italia dal 7 di dicembre, Sant'Ambrogio, al 7 di gennaio, quindi passata la Befana, per una crescita del 4% sul 2016. In pratica più di 2 milioni di bottiglie al giorno, con due momenti clou: 11 milioni di tappi in volo per Natale e 38 milioni per salutare l'arrivo del 2018. Sono stime di Gian Pietro Comolli, che è a capo dell'Osservatorio Statistico Economico OVSE su mercati e consumi vini spumanti, e del CEVES, Centro Studi di Ricerca Vite e Vini alla Cattolica di Piacenza. Perché vi ho letto tutti questi dati? Perché dalla Gran Bretagna, eccola lì, arriva di nuovo la bufalona. Secondo il tabloid inglese The Sun, le bollicine trevigiane farebbero male ai denti. Ci hanno già provato una volta? No, non è bastato. Riprovano anche la seconda volta, addirittura farebbero marcire i denti, e poi li trasformerebbero in polvere simile al gesso. Non so poi se ci fanno diventare anche dei lupi mannari. È logico che è talmente grossa che non possiamo crederci, ma mi piace commentarla con il professor Luca Levrini, odontoiatra e docente di ruolo all'Università degli Studi dell'Insubria, autore della Dieta del Sorriso. Buongiorno professore, buongiorno, buona domenica. Buongiorno a voi. Altro che Dieta del Sorriso, notizie come queste fanno altro che sorridere. Ma professor Levrini, siamo qua con la dottoressa Flachi. E buongiorno. Siamo qua alla tavola della bufala in tavola proprio per commentare quest'altra bufalona che arriva, certo, dalla Gran Bretagna. Ma il primo commento deve essere, anzi, due commenti sono positivi. Queste cose generano anche necessità di cultura, quindi io affronto questo momento in modo felice, perché so che porterò un briciolo di cultura rispetto alla relazione, l'importante relazione che c'è tra il cibo e la salute dei denti. L'altro motivo è, subito sdrammatizziamo, cioè beviamo pure prosecco, beviamolo assolutamente, perché dire non fa male ai denti è scorretto, però bisogna fare delle precisazioni, nel senso che c'è uno studio ben preciso fatto in America dove sono state prese 300 bevande. Ebbene, il 93% di queste 300 bevande fanno male ai denti. Per cui, se fa male ai denti il prosecco, lo fanno male ai denti anche la birra, lo champagne, le bibite, il succo di limone, le spremute, i succhi d'arancia. Praticamente tutti, quasi tutti, le bevande, eccezion fatta per il latte, per l'acqua, sono acide. Ed essendo acide, vanno in qualche modo a aggredire in modo temporaneo lo smalto. Ma professor Levrini, lei ha mai dovuto curare un dente marcio da prosecco? Mai. Mai. Ho sempre dovuto curare dei denti perché la gente non si lavava i denti. Altro che prosecco. Ma... No. Ecco, quindi adesso non è che possiamo dire di lavarvi i denti col prosecco, però di restare un attimo lì, perché ritorniamo subito dopo. La dottoressa Flachi ride e sorride, ma noi parleremo anche della dieta del sorriso. A Natale ci scambiamo baci, abbracci, sorrisi. Vogliamo avere un sorriso, non di denti marci naturalmente, ma questi inglesi possono stare tranquilli, quindi anzi li invitiamo a bere, a brindare con noi a Natale e al nuovo anno. Andiamo a fare una pausa, poi ritorniamo insieme al professor Levrino e alla dottoressa Evelina Flachi. gennaio 2017. Scosse di terremoto, neve, gelo in centro Italia. I soccorritori hanno raggiunto l'hotel Rigopiano isolato dalla neve. Maggio 2017. I temi di questa giornata economico-finanziaria, se vi dovessero essere altri aggiornamenti da San Pietroburgo, ve li daremo in diretta come abbiamo fatto dalle 14 in poi. Per il momento. Luglio 2017. Paolo Villaggio, scomparso il 3 luglio scorso, che è stato un grandissimo protagonista. Ottobre 2017. Sai cosa mi piace della vicenda della Catalogna? Caro David, mi piace il fatto che si stanno scannando sul nulla. Cioè, dovremmo godere di questa situazione. Io infatti godo come un pazzo, si scannassero tra di loro. Rivoluzioni, gente in piazza, fuoco, fiamme, Catalogna, confini blindati. Tu sei un creatore di casino. Stupendo. Anche quest'anno vi abbiamo raccontato il mondo, tutti i giorni, e continueremo a farlo nel 2018 con la nostra serietà, autorevolezza, passione e leggerezza. Perché il mondo, oltre ad essere vissuto, va soprattutto capito. Buone feste da Radio 24. La bufala in tavola. Stiamo brindando alla bufala in tavola, stiamo brindando con delle bollicine insieme al professor Luca Leverini e alla dottoressa Evelina Flacchi. Stiamo festeggiando un po' queste clima natalizio, prenatalizio, e commentando la notizia per la seconda volta, l'avete sentito, dalla Gran Bretagna, da un tabloide inglese, The Sun, è arrivata la notizia che il prosecco fa marcire i denti. Tranquilli, professor Leverini. Sì, bisogna stare tranquilli, perché di fatto il prosecco, così come un po' tutti i vini, deve essere bevuto con moderazione, in modo tranquillo anche rispetto ai denti, per alcune semplici considerazioni, nel senso che tutte le volte che mangiamo qualcosa, in qualche modo il nostro smalto viene attaccato e la saliva diventa acida, e diventando acida la saliva, lo smalto un pochino perde di sostanza superficiale. E questo è vero, ma questo è vero, come ho detto prima, ogni qualvolta per tanti noi mangiamo altri prodotti. Sì, ma praticamente il 93% dei liquidi che assumiamo, ma non solo, anche degli alimenti che assumiamo, in qualche modo sono acidi e generano acidità. È chiaro che il suggerimento deve essere quello di non bere il prosecco, diciamo, al di fuori dei pasti, per cui io non devo alle 2 del pomeriggio dissetarmi con... Ma non solo per i denti questo. Piuttosto lo posso bere durante gli aperitivi, per esempio, ma come durante i pasti. L'attenzione che bisognerebbe avere per fare in modo che questo, tra virgolette, danno che dà il prosecco, ma così come tutti gli alimenti, è quello... al termine del pasto o al termine dell'aperitivo, andare a nutrire invece i denti, così come le gengive, di qualcosa che fa bene. La prima cosa che mi viene spontaneo pensare è il formaggio. Il formaggio è ricco di calcio e di fosfato, che all'opposto, invece che togliere dallo smalto, va a nutrirlo, in qualche modo va ad apporre una nuova sostanza che poco prima era stata in modo molto limitato persa. Cito il formaggio, potrei pensare al pesce, agli alici, alla verdura, a tutto quanto di croccante in qualche modo può fare bene al dente dopo che un pochino ha sofferto. E quindi io sarei assolutamente portato oggi a dire: brindiamo liberamente e beviamo liberamente il nostro prosecco, anche perché poi, come tutti i vini, ha anche dei motivi positivi nei confronti della bocca, perché devo ricordare che il vino è un modesto battericida, anche in modo particolare rispetto al batterio che genera la carie, cioè lo Streptococcus mutans. E poi ha delle sostanze che si chiamano polifenoli, che fanno in modo che la placca batterica che causa carie, che causa gengivite, fanno in modo che non si aderisca così tanto al dente. E quindi bere con moderazione durante i pasti è assolutamente un progetto che in qualche modo può essere positivo per la salute dei denti. Quindi non capisco perché c'è questo attacco forzoso verso un prodotto così buono e così utilizzato da tutti noi. Dottore, perché, mi dica, no, professore, l'ho interrotta. No, io vedo e con i miei colleghi vediamo tanti pazienti. Vi assicuro che non ci sono pazienti che vengono da noi perché bevono prosecco. Certo, dottoressa Flacchi. Confermo quello che ha detto il dottore, ovviamente, e tenendo presente che ci vuole equilibrio nel consumo di tutti i cibi. Probabilmente lo studio partiva dal presupposto che bevessero litri di prosecco per arrivare a queste conclusioni. E come dicevi giustamente tu, i problemi poi sarebbero anche di altro genere. Certo. Quindi in tutto ci vuole un po' di saggezza, e confermo anche il consiglio del dottore di finire magari il pasto con qualche verdurina. In questa stagione abbiamo finocchi, sedano, e possono aiutarci. Ecco, li troviamo anche nei bar quando facciamo l'aperitivo, e quindi può essere un ottimo consiglio per alcalinizzare e aiutare le nostre gengive. E quindi per un bel sorriso, e altre informazioni le trovate sulla dieta del sorriso, mangiare bene per la salute della bocca, che il professor Levrini ha scritto e di cui abbiamo già parlato in occasione dell'uscita del libro. Quindi attraverso l'alimentazione c'è un nutrimento a 360 gradi, e certo, quindi anche la bellezza dei denti, anche il piacere di sorridere. Certo, assolutamente sì. Professor Levrini, io la saluto, la ringrazio, le auguro buon Natale, buone feste, buoni brindisi. Esatto, brindiamoli veramente col prosecco, assolutamente. Adesso ci prenderanno per uno spot al prosecco, ci prendono tutte e tre. Grazie ancora, buona Natale, giornata. Arrivederci. Dottoressa Flacchi, noi abbiamo la nostra rubrica conclusiva, che è... Senti come mangio. Intanto mangiamo, ecco, questo è il messaggio. Esatto, dottoressa Flacchi. Poco mangiamo di tutto, con piacere, con la gioia di incontrare i nostri parenti in una giornata. A volte si deve mangiare speciale, bere anche un pochino di prosecco per incontrare i parenti, per prendere un po' coraggio, ma ce la possiamo fare, e possiamo giocare anche su degli abbinamenti. Possiamo proprio alcuni suggerimenti sono stati già dati dalla dottoressa Flacchi nel corso della nostra puntata, ad esempio, e inizio dal fondo, pandoro e panettone, i dolci, mangiamoli, forse senza mettere il carico, quindi la crema pasticcera per accompagnare, o la panna per accompagnare magari il pandoro, direi magari un po' meno. Certo, basta metterne magari un cucchiaio invece di due o tre. Ecco, usare un po' il cervello, anche se, come dicevi tu prima, in queste giornate è molto difficile avere questo autocontrollo, perché c'è un po' il contagio, no, nell'abuso. Piuttosto cerchiamo di preoccuparci nei giorni successivi a tenere sotto controllo gli alimenti di cui abbiamo abusato, ecco. Quindi moderare le quantità, magari fare una dieta più che un digiuno, fare delle scelte alimentari rimineralizzanti, depurative, quindi ci possono venire incontro dei passati di verdure amare che in questa stagione possiamo trovare. Prima il piacere, un po' la mortificazione dopo. Sì, ma poi però... possiamo anche aiutarci con dei centrifugati gustosi, sì, che rimineralizzano l'organismo, possono avere un'azione drenante se facciamo anche dei mixer tra verdura e magari un frutto. Quindi usare queste strategie per avere comunque un senso di sazietà, assumendoli sempre con abbondante acqua, ma con una minor densità calorica. E ecco, poi ricordatevi di pensare mentre mangiate, insomma di fare attenzione, perché soprattutto quando siamo intorno a una tavola imbandita con amici eccetera, spilucchiamo, sgranocchiamo, mangiamo una quantità di cibo di cui non percepiamo quasi neanche il sapore, gusto. Il gusto, sgranocchiamo così tanto perché aspettiamo, o magari sbocconcelliamo pane, grissini, ecco, tutto quell'extra dell'extra dell'extra, forse conviene mettersi, rinunciare a quelle e farsi una bella porzione della lasagna alla mamma. Esatto. Ecco, piuttosto che mangiare senza quasi rendercene conto, un po' per attesa o per noia o per stare in compagnia. Dottoressa Flacchi, che dice? Sì, infatti questo è un ottimo consiglio. Dico le cose che faccio io regolarmente. Sicuramente questo va fatto anche nei giorni successivi, perché avremo tante cose ancora in casa. Quindi cerchiamo di diciamo fare un pasto completo in tutta la giornata invece di farlo in una sola volta. Quindi abbinare magari a un primo un'abbondante porzione di verdura preceduta dall'acqua. Per esempio, il trucco che consiglio sempre è di bere un bel bicchiere d'acqua, anche due, assumere un po' di verdura o grigliata o vapore, un'insalatona prima della porzione di primo o di secondo, che potrà essere sicuramente più gratificante, anche se più piccola. È vero, questo è un barbatrucco, come dice Laura Vanossi, perché insomma togliamo la più grossa. Sì, quindi a un pasto facciamo il primo, l'altro il secondo, preceduto da abbondante verdura e dal bicchiere d'acqua. Ecco, e poi se ci sono tanti avanzi, fate la cena degli avanzi con magari con gli amici magari quegli amici che sono rimasti soli, che vivono anche questi momenti di Natale un po' con tristezza, perché ecco, evitiamo lo spreco, abbiamo gli amici e la nostra linea ci guadagna. Dottoressa Flacchi, tanti auguri. Grazie anche ci a voi. Ci sentiamo con il nuovo anno. Noi invece ci sentiamo domani, sempre a mezzogiorno, con Obiettivo Salute, poi Obiettivo Salute Video, poi insomma lo sapete, ormai a mezzogiorno ci sentiamo sempre. Io sono molto contenta e ci vediamo anche, perché la salute Radio 24 non solo si sente, ma come sapete si vede. Buona domenica a tutti e buona spesa. Un saluto da Nicoletta.